Cervello 19 è una rete, un'entità un po' fluida che sta un po' stretta a qualsiasi definizione, di fotografi e fotografi, che è nata a marzo 2020 in piena pandemia, cercando di rompere un po' l'isolamento e creare una sorta di comunità sia tra chi fa, insomma, il nostro lavoro, e sia per offrire anche un po' dei punti di vista e delle storie che stanno succedendo in Italia, insomma, nei vari territori, sia nelle città che nelle piccole comunità. Giusto per questo avevamo fatto anche una mostra al Postlux a Lucca, che si chiamava L'inizio del futuro, e una parte di queste stampe che, diciamo, ci sono tornate fisicamente, abbiamo deciso di metterle all'asta, perché molto spesso abbiamo molta voglia anche di tornare offline, visto che comunque Arcipelago nasce online col canale Instagram e col sito, e abbiamo deciso di dare un po' di concretezza, di tornare fuori dall'online con quest'asta, che sono più di 47 fotografie su un'asta che finirà domani sul nostro canale Instagram. Tutto il ricavato verrà dato alla Cassa Resistenza della CKN, è una vertenza non a caso, perché è una di quelle vertenze che da subito ha cercato di strabordare un po' fuori dalla fabbrica e cercare di convergere anche con tutte le altre vertenze, sia del lavoro ma anche più sociali e ambientali nei vari territori. Lo hanno sempre fatto appello anche ai giornalisti precari, insomma, a chi viveva situazioni, insomma, di lavoro un po' come la loro, un po' sotto ricatto, un po' sotto diritti, diciamo. E quindi da ieri mattina le foto sono sul canale, sul profilo Instagram di Arcipelago, con un commento sotto la foto che si sceglie, si può fare l'offerta, rilanciare, e poi domani sera alle 8 mercoledì chiudiamo l'asta. Infatti sì, ecco, il meccanismo è questo: sotto ciascuna fotografia ciascuno può fare la propria offerta, ovviamente c'è una base d'asta che avete fissato voi. Sì, perché le foto sono poi di vari formati, essendo parte di una mostra, sono già stampate, quindi ci sono fotografie più grandi, più piccole, è una base d'asta inizialmente abbastanza comune, in modo che comunque anche se uno rilancia, diciamo, la sola base d'asta, riusciamo comunque a dare un contributo dignitoso, insomma, alla Cassa Resistenza. E poi chi vincerà si aggiudicherà la foto. Sì, abbiamo deciso di spedirle un po' con calma per non intasare anche il lavoro dei corrieri, che di questi tempi purtroppo sono sotto stress, quindi invieremo una cartolina virtuale, per cui chi vuole regalare la foto avrà qualcosa comunque da dare di fisico, però poi la fotografia verrà spedita o consegnata a mano su Milano o Bologna, oppure spedita tramite posta, però arriverà, insomma, con l'anno nuovo. Questa iniziativa, dicevi appunto, anche l'ispirazione che vi ha dato la GKN, ci dice che si può fare comunità anche con l'arte o il giornalismo, quindi la fotografia, ed è, non è solo una professione, ma può essere usata anche per scopi, diciamo, comunitari. Certo, assolutamente, è anche un po' quello che ci piace fare. Hanno fatto un post bellissimo il collettivo di fabbrica sull'asta, in cui dicono appunto che si è fuso tutto, no? Che non importa, insomma, quello che fai nella vita, come lavoro, eccetera, ma importa un po' la direzione che vuoi prendere e l'orizzonte verso cui vuoi andare. Quindi ci sentiamo assolutamente dalla stessa parte o dallo stesso sguardo, insomma, verso quell'orizzonte lì. Ricordo ad ascoltatrici e ascoltatori che possono andare sul profilo Instagram di Arcipelago 19 e trovare l'asta e guardarsi le foto, scegliere magari quelle che piacciono di più, fare la propria offerta e, insomma, seguire anche come va l'andamento per capire se poi se ne saranno aggiudicata.